Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Senta, ma Amadeus adora lavare i piatti, Gasparri passa l'aspirapolvere, lei che cosa fa in casa? C'è un'occupazione? Fai qualcosa per l'economia di casa Cairo. In questo momento sono a casa con mia figlia, sì. E cuciniamo, lei è più brava di me, io faccio delle cose molto semplici. Tipo? Ecco. Cosa fa, Presidente? Il cavallo di battaglia qual è, Orfano? Io mi faccio un uovo al tiramino. Invece cosa ha provato a cucinare? Ma i soliti spaghetti, cosa vuole che faccia? Spaghetti come? All'olio. E le è venuto male l'olio? No, l'olio è buonissimo, sì. Perché è nostro, certo. È della nostra, lo produciamo noi a Pantelleria e siamo orgogliosi. Beh. Di questo. No, ma guarda che non sono ingrassato. Appunto non mangiavi. Sei fatti da mangiare da solo. I primi tre giorni ho mangiato cartone e pezzi di muro che non so cucinare. Caro chef, l'hai sentito? Cairo, Capello, Balotelli, come stai? Pier caro, ciao, buongiorno a tutti, sono naturalmente felice di essere qui con voi. Sì, ho sentito Urbano Cairo, ho sentito Fabio Capello che produce olio, pasta all'olio e olio, credo di aver capito, no? Se non ho capito male. Sì, beh, un classico. E poi Mario Balotelli che mangia cartone mi fa veramente spanciare, per cui bello, bello. Come va? Come va, Pier? Va bene, la mia quarantena è andata bene, si è mangiato, si è cucinato, siamo stati inondati dalle repliche di Mangia come parli per tutto questo periodo. Devo dire insomma che molte delle cose che abbiamo sentito in queste repliche sono sempre valide, sono fredde come si dice in gergo, cioè vanno sempre bene, e questo periodo si è cucinato molto. Tu che hai fatto? Com'è andata la tua quarantena, chef? La mia quarantena, devo dire, l'ho passata in maniera un po' violenta all'inizio, perché io, tu sai, che dal sabato al lunedì ho chiuso un'attività che pensavo che non si potesse mai fare una roba del genere, per cui quando ho cominciato a vedere che lunedì non si poteva riaprire, ho cominciato il martedì a preoccuparmi un po'. Preoccupazioni che poi naturalmente sono durate un po' in questo tempo, però sono riuscito a bypassarle dedicandomi un po' alla cucina, ai progetti nuovi. Calcola, Pier, che abbiamo chiuso quando era ancora inverno, pensavo di aprire con la carta il menù primaverile, ci siamo trovati tipo una settimana fa con i miei ragazzi, naturalmente su Zoom, su una piattaforma digitale, per poter capire come il 4 di giugno riaprire con la carta estiva. Per cui, insomma, un po' di cose forti le abbiamo avute, adesso proviamo a prendere un po' il buono da questa situazione. Senti, visto che abbiamo perso purtroppo qualche puntata, insomma, in queste puntate prossime noi parleremo ovviamente molto di attualità, perché il coronavirus inevitabilmente ha cambiato gli equilibri, purtroppo anche l'economia, staremo particolarmente attenti a ricordare la forza del Made in Italy, cercheremo di capire se il Made in Italy riuscirà a cavarsela in un momento così importante. Lo diciamo, mangiamo italiano nei limiti del possibile, viaggiamo in Italia quando sarà possibile ovviamente farlo di regione in regione, perché è estremamente importante, e accorperemo le nostre regioni in un abbraccio ideale fra nord e sud, che comincia con questa puntata nella quale mettiamo insieme Veneto e Calabria. Quindi tu hai le solite quattro ricette, hai fatto un the best of, no? Le migliori del Veneto e della Calabria. No, allora io direi di sì, best of, meglio nord, anzi ovest, insomma abbiamo mischiato un po' la nostra bella Italia per dare un po' forza a tutti, e poi possiamo dire un po' l'anteprima, Pier, possiamo, diciamolo, del nostro libro, il libro di Mangia come parli, per cui queste ricette che stiamo riprendendo ora, quelle che abbiamo fatto fino a 3 mesi fa prima della pandemia o quelle da settembre in poi, fra un po' verranno editate sul nostro libro di Mangia come parli. Molto bene, molto bene. Ci sarà da mangiare e da cucinare. Non so se c'è già Giusy Versace che ci ascolta, ovviamente. Come stai, Giusy? Era bello Giusy Versace, ho fatto la concordanza. Allora, tu sei atleta, ovviamente, deputata, impegnata da sempre per i diritti dei disabili, anche con una bella fondazione che è Disabili No Limits. Buongiorno, ma guarda, intanto già è un successo che tu non abbia fatto la solita gaffa che fanno tutti. Qual è? Che, sapendo che io mi chiamo Versace, mi presenta come, ecco noi, Giusy Ferreri! Beh, un classico. Ma perché sbagliano tutti, ragazzi? Io devo Devo studiarmela meglio questa roba qua. Non so. Sì, oppure battute tipo una donna alla moda o cose di questo tipo. Non lo so perché. Comunque a me chiamano Gianluigi da anni, quindi se ti può consolare senza tra l'altro apparente motivo. Senti, tu sei orgogliosamente calabrese. Qual è la tua Madeleine? Qual è il tuo ricordo, magari anche dell'infanzia, legato alla cucina calabrese, la cosa che ti fa impazzire? Guarda, io mi sono milanesizzata, ma sono terronissima nel DNA, guai che mi tocca la mia terra. E ragazzi, da piccola ricordo che mia nonna mi preparava la merenda. Siete seduti? Sì, sì. No, Giusi. Scusami un attimo, ma l'accento è molto milanese, attenzione. Io dopo 20 anni non ho ancora La merenda, qua sono tutti milanesi, Giusi. La merenda, no, ma io dopo 20 anni non ho ancora imparato a dire bene circonvallazione. La circonvalla. Comunque, la circonvalla, mia nonna mi preparava la merenda, ragazzi, con il panino, cioè pane con dentro parmigiana, ho detto tutto. Cioè, pane e parmigiana? Pane e parmigiana, la merenda della nonna. Poi per piatto leggero? Quando proprio voleva essere un po' più leggera, pane frittata. Comunque c'è il pane da tutte le parti. Mi sembra il pane da tutte le parti e soprattutto cose belle, belle sostanziose, perché Davide, la cucina calabrese è una cucina insomma di sostanza, no? di sapori forti, che ha certamente paura. Calabria è, di osare. È forti, io direi decisi, ma molto provenienti dal cuore. Io sono stato a Diamante, che Giusi conoscerà sicuramente, il posto, a parte il posto fantastico per il lungomare che c'è, le spiagge tenute in una maniera incredibile, pulizia, eccetera. Sono stato in questo campo catalogo, chiamavano così, del peperoncino. Lì c'è anche il museo del peperoncino, che ho visitato con tanta attenzione, e poi ho visto questo campo catalogo dove ci sono tutti gli esperimenti del nuovo peperoncino e ho potuto degustarne un bel po', per cui tra la cultura del cibo, tra la cultura del bello, perché io quello che ho visto lì è stata veramente un'esperienza incredibile, devo dire che la Calabria mi è rimasta molto nel cuore. Senti, ma l'anduia l'hai preparata, chef? Sì, anduia, riso e melone, vedo, quindi l'hai rivisitata, no? Ma sai, ragazzi, sapete che l'anduia ci vuole, insomma, devi selezionarla buona, poi è tutto lì, il piatto è già pronto, per cui devi essere un assassino se fai un piatto mal cucinato con l'anduia, perché il prodotto già quello che arriva dalla Calabria spedito, ragazzi, lo prendi, lo apri e lo mangi come se fosse... Cos'è l'anduia per te, Giusi? Cos'è l'anduia per te? Cosa rappresenta? Vabbè ragazzi, io già io sono piccante di mio, già di carattere, ti voglio dire, mio padre si pianta tuttora il peperoncino, lo mangia crudo, non so come faccia, adoro. Però guarda, c'è molta cultura, bisogna lavorare molto sulla cultura, perché tanti non sanno che quella terra sforna delle robe pazzesche, delle prelibatezze uniche, è l'unica terra dove cresce il bergamotto, dove fanno la liquirizia, cioè top. Liquirizia Marelli, diciamolo Giusi, 300 anni di famiglia che fa liquirizia. Bisogna dire, il valore aggiunto dell'Italia, ragazzi. Il maialino, il maialetto, come lo chiamano, fatto con le radici della liquirizia. Ragazzi, a Diamante a mezzanotte e mezza ho mangiato tipo mezzo chilo di peperoncini, le chips di peperoncino, che sono una cosa, ancora adesso mi viene la pelle d'oca a dirlo. Allora, su questo momento, su questa pelle d'oca, vi fermo un attimo, perché ci fermiamo, proprio un secondo, ci fermiamo, ripartiamo subito. Mangia come parli, mangia come parli. Siamo con Giusi Versace, ovviamente con lo chef Oldani, a parlare di Calabria, ma vi ricordo che parleremo anche di Veneto. Fra poco arriva Sebastiano Barisoni anche per fare il punto, insomma, sulla situazione post-coronavirus in tutta la filiera enogastronomica italiana, che è importantissima, perché insomma, sappiamo che c'è stato il virus, quello che purtroppo ha portato vittime e sofferenze, e poi c'è anche la conseguenza economica, che è un altro tema ovviamente particolarmente caldo. Ma stavamo parlando di induia, di cose molto piccanti, Giusi. Non so se tu ti sei sottoposta a questo rito del peperoncino a mezzanotte. Ma beh, io mangerei il peperoncino anche a colazione, perché mi piace a morire. Un po' meno l'anduia, sono sincera, perché io gli insaccati e tutte quelle robe lì un po' pesantucce, ecco. Però mi piace regalarle a Natale, faccio di Natale regalo tutte le prelibatezze calabre, induia compresa, però vi devo dire che la cosa che io più adoro in assoluto è, chef Oldani mi capirà, ma le polpette di melanzane che fa mia madre, ragazzi. E qui siamo, vabbè ragazzi, qui possiamo organizzare un derby. Ma a Milano mi dicono di melanzane, la polpetta di melanzane, cioè, come si fa a vivere senza aver mai assaggiato nella vita una volta le polpette di melanzane? Non si può, non lo posso tollerare. È un po' più difficile per i milanesi, perché la melanzana è forse vista solo nei due mesi estivi e poi è vista come una spugna, perché sai, la melanzana quando la cucini assorbe molto, e allora probabilmente nella vecchia cucina milanese era poco frequentata, perché anche la mia mamma fa le polpette di patata, e quando uno dice le polpette di patata dice impossibile farle. Ti garantisco che ancora prima della pandemia mi fece queste tre polpette di patata che erano fantastiche. Devo dire per che cui sulla, tutta... sulla polpetta siamo competitivi, anche Fausta, devo dire, gliela molla con la polpetta di melanzane, è veramente, Fausta è mamma, lo dico per chi non lo sapesse, veramente livelli importanti, c'è un elemento di tradizione. Senti, facciamo l'insalata di anguria, una pomodoro ricetta. E calamaro, dai facciamo la ricetta, vai, jingle. Fantastico. Ricetta, musichetta, mettiamo qualcosa, perfetto. Vai, ho bisogno di un jingle potente adesso, eh? Allora, un'insalata di anguria, ascolta bene Giussi, pomodoro e calamaro. Allora prendiamo, puliamo i calamari, li laviamo per bene, li tagliamo a mo' di spaghetto, quindi un po' di pazienza ci vuole, visto che l'abbiamo imparata anche nella pandemia. Lo tagliamo a spaghetto molto molto sottile, poi lo sciacquiamo appena appena sotto l'acqua, lo andiamo a marinare con un po' di olio extravergine di oliva, la buccia a questo punto di un bergamotto calabrese, lo possiamo dire, appena appena, oppure il limone se non si ha il bergamotto, per una ventina di minuti lo lasciamo lì a parte in una piccola ciotola. Per l'insalata invece laviamo e tagliamo 4 fette di pomodoro, io direi il cuore di bue, per cui tagliamo queste fette più o meno di 2 cm, le facciamo marinare anche loro con un decilitro di olio extravergine di oliva. Io uso il Taggiasca, per questa ricetta usiamo un olio calabrese naturalmente, e un decilitro di aceto di lampone e un pizzico di sale. Quindi abbiamo le due marinature di pomodoro e di calamaro, dopodiché scoliamo i pomodori e i calamari, li asciughiamo per bene, li adagiamo nel centro di 4 piatti e prima di servire terminiamo con 2 cubetti ciascuno ogni piatto di 2 cm l'uno e 3 foglie di basilico per ogni commensale. I 2 cubetti sono i 2 cubetti naturalmente di anguria che arrivano direttamente dal frigo, che danno un po' di freschezza, un po' di aromaticità e leggerezza a questo piatto tra pesce, verdura e frutta. Beh, mi sembra molto molto interessante, ma Giussi, tu sei, però insomma, mi sono svenuta. ti stavi emozionando. Dico, no. Qual è la cosa che ti concedi dopo le tue vittorie? Perché insomma, comunque tu sei un atleta, quindi il rapporto col corpo, con l'alimentazione deve essere un rapporto equilibrato. Ma guarda, io ho un'alimentazione molto basica e leggera, perché comunque è rimasta la deformazione da atleta, quindi cerco di mangiare pochi grassi, proteine, robe sane. E poi siccome ho un cattivo rapporto con la frutta, che mi piace, però... sono pigra in quel senso, proprio sì. Di bucciarla. Sì. Anch'io sulla frutta sono un po' pigra. Sì, però va bene, vabbè, però ho imparato a usare meglio tutti quelli che sono gli strumenti, tipo il frullatore, le centrifughe, mi faccio dei mix di robe energetiche, così ingoio, butto giù e almeno prendo un po' di vitamine in questo senso. Poi quando voglio esagerare la domenica mi voglio dare anche un tono, quelle poche volte che riesco a invitare degli amici a casa, certo sì. Adesso evitiamo gli assembramenti, sia chiaro, lo so, però certo. Quando voglio proprio esagerare, io due cose so fare bene, due: la pasta, la lasagna al forno, ma con la ricetta di mia mamma, di mia nonna, scusate, proprio alla calabrese, quelle lasagne al forno tipo a 4 piani con dentro di tutto, persino le uova sode, le polpette, il peperoncino, le olive, il prosciutto. Piatto completo, diciamo piatto completo, Giussi. Io mi sparo una teglia di quelle e faccio un figurone. Non lo posso fare sempre. Mi è venuta fame, cosa che mi succede abbastanza spesso, ma devo dire che ci si è riusciti in maniera particolare. Giussi, grazie di cuore, in bocca al lupo ovviamente, immagino che sia per la tua fondazione, grazie, che il Parlamento maggioranza, opposizione, tutti, destra, sinistra, sovranisti, europeisti, dobbiamo darci una mano perché il momento sto è delicato. Esatto, però io parto dal presupposto proprio perché lo sport ce lo insegna che l'unità e il lavoro di squadra quando bisogna guardare un obiettivo è fondamentale. Assolutamente. Guarda che è lo stesso discorso lo sport di squadra che c'è nella cucina, per cui la cucina è quell'altra parte assieme allo sport che sono gli ingredienti essenziali della vita. Portiamo lì a Roma qualcuno, qualche ristoratore, qualche cuoco che possa, e non solo manager, che possa aiutare questa nuova ripresa sull'affrontare la nuova ristorazione, la nuova ospitalità all'italiana. Aiutaci anche tu. Assolutamente, aiuto. In me trovate sempre un'alleata su queste cose, sempre usatemi come meglio credete e grazie che mi avete regalato un sorriso e questo viaggio in Calabria che proprio mi ha riempito il cuore, grazie. E ne abbiamo bisogno, così come abbiamo bisogno di Sebastiano Barisoni, vice direttore di Radio 24, insomma Focus Economia. Buongiorno Barisoni. Come va? Tu buonanotte, buon pomeriggio. Buongiorno, come buongiorno. State? Bene, insomma, nei limiti di come si può stare in questo periodo, però credo con tanta voglia di vivere che poi è la cosa... Almeno siamo ripartiti con le produzioni, diciamo, nuove, quindi c'è comunque un piccolo passo in avanti, lentamente anche la radio che non si è mai fermata, come sapete bene anche voi, però adesso sta ripartendo anche con tutte le produzioni nuove, quindi voi stessi tornate a registrare, questi sono piccoli segnali di vitalità anche per noi, ci mancherebbe. Assolutamente. Quindi. Sebastiano, tra un po' parliamo di grandi piatti veneti, grandi ricette venete, però io con te partirei dall'aspetto di tutto l'enogastronomico, cioè sappiamo che in Italia è un settore particolarmente importante, sia dal punto di vista dei numeri, dei fatturati, che dal punto di vista dell'immagine, della percezione, del brand. Quando non ho Made buone in notizie per voi però, perché... Ecco, però scusa, nell'ultimo decreto c'è una possibilità della ristrutturazione sulle aziende, degli immobili acquistati e c'è un ipotetico recupero totale di quello che uno spende nell'investimento. Quindi io ho iniziato a fare un investimento del genere per poter impiegare delle altre persone. Questa cosa ti torna oppure no? Beh, allora, per quello che riguarda la parte di aiuti, tu parli di ristrutturazione immagine edilizie, c'è il 110% sugli cosiddetto eco bonus, cioè tutte le ristrutturazioni che vanno a creare maggiore risparmio energetico o quello che si chiama anche sisma bonus, quelle ristrutturazioni che permettono di mettere, in quel caso recuperi tutto, poi c'è un altro 50% per le altre ristrutturazioni. Devi guardare con attenzione la norma perché l'eco bonus ha comunque dei paletti, devi avanzare di categoria energetica. Quello che io spero però, e per ampliare la tua domanda, esiste anche, lo Stato ha stanziato circa 5 miliardi per gli interventi a fondo perduto nelle imprese, a seconda che tu abbia fino a 400 mila euro di fatturato, oppure fino a 1 milione, oppure fino a 5 milioni. In quel caso lo Stato interviene e ti dà la differenza tra quanto hai guadagnato ad aprile del 2019 rispetto a quanto hai guadagnato ad aprile del 2020. La differenza viene coperta per un 20%. Poniamo che tu abbia guadagnato nel aprile 2019 10.000 euro e quest'anno aprile 2019 hai guadagnato 1.000, per essere buoni, i 9.000 di differenza lo Stato ti dà il 20% fino a 400.000 euro, 10.000 euro fino, o il 10% fino a 5 milioni. Quindi, in sostanza prenderesti, se tu avessi un fatturato di 400.000 euro, ma penso che sia più alto il tuo, prenderesti il 20% di 9.000 e cioè 1.800 euro. Va detto però... Ma questa cosa è confermata però, perché sì, io... Sì, sì, è nel decreto, che è stato varato. Ora, sembra poco prendere 1.800 euro avendo avuto una perdita di 9.000 euro, immaginando che tu da 10.000 sia passato a 1.000 euro aprile su aprile, però sono 1.800 euro netti che tu invece per ottenere avresti dovuto fatturare quantomeno probabilmente 4.000 euro di fatturato. 4.000, è un ristoro un po' più alto e tra l'altro non hai avuto i costi, cioè io dico 1.000 euro ma probabilmente tu hai avuto zero costi ad aprile. E quindi detto questo, poi andiamo alla parte più così faceta e anche leggera. Io sono preoccupato per il vostro settore, continuo a dirlo, per il settore del turismo, per l'Horeca, hotel, ristoranti e catering, perché vedi, come diceva Tolstoi sulle famiglie e gli amori infelici, ogni amore infelice è infelice a modo suo. Adesso noi abbiamo avuto tutti i settori bloccati, perlomeno il commercio, fino a a metà maggio, e lì eravamo tutti infelici in maniera uguale, eravate. Adesso che riaprono invece i vari settori, alcuni, ti faccio degli esempi banali, il parrucchiere famoso, beh, tornerà a fatturare quanto prima a un certo momento nei mesi prossimi, i capelli non smettono di crescere, così come altri elementi di necessità andranno avanti. Mentre tutto ciò che è un consumo culturale, purtroppo il ristorante è un consumo culturale, io non sono obbligato ad andare al ristorante. E allora lì il problema sarà appunto capire come ci si muove culturalmente. So che state facendo molto delivery, molto asporto, ma non basta per mantenere i livelli occupazionali. E temo che lì, e questo si collega anche al turismo, essendo comportamenti culturali, non bisogni primari, ci vorrà più tempo. Non tutti ragioniamo nello stesso modo, non tutti ci fidiamo. Poi il ristorante è anche un momento di convivio. E quindi insomma sapere che c'è meno gente, avrete più difficoltà, e penso che il governo e lo Stato dovrà intervenire in maniera specifica, non generica, sui settori che ho appena nominato, che saranno quelli in maggiore difficoltà. Assolutamente, ripartiamo da qui e ovviamente anche dalla cucina veneta, insomma, tornando su aspetti che vuoi. Più strettamente... Ma vuoi sapere cosa ho cucinato in quarantena, Davide? Adesso, me lo dici dopo, fra un attimo il menù di Barisoni, fra un attimo. Che... Mangia come parli. Allora, fra poco acciughe marinate, cipolla e radicchio trevigiano, immagino, con il professor Oldani, ma intanto il menù di Barisoni. Lei ha cucinato, Barisoni, è in forma? È in forma? Forma, dopo 2 mesi e mezzo che non vado in palestra, una parola grossa. Oh, diciamo che non sono ingrassato perché ho cercato di mangiare con attenzione. Il menù mio non è un menù molto veneto, cioè, oddio, ho fatto anche del risotto a radicchio, quando c'era ancora un po' di radicchio in giro, ci mancherebbe, e ho fatto anche il riso e bisi, che conosce bene Davide, che sono... Però è il momento, sei stagionale. Meglio essere stagionale che stagionato, ti assicuro. E da questo punto di vista, poi, invece, ho migliorato ulteriormente, con grande soddisfazione anche di mio figlio, la matriciana. Sono riuscito a fare una matriciana. Anche mia soddisfazione. Non dimenticare che sono nato a Roma. Non si lascia mai per sbaglio a Roma. Motivo. Comunque, allora parliamo di economia. Alcuni aspetti tecnici già ce l'hai raccontati. È possibile quantificare a livello di comparto il peso anche in termini percentuali? Abbiamo letto di settori merceologici. Penso per esempio alle autovetture che ad aprile sono state vendute con un meno 95%, 97%, ma ovviamente perché la gente stava a casa. Si può pianificare, si può immaginare l'impatto sul fatturato complessivo dell'enogastronomia italiana? Perché in realtà si è mangiato, no? È uno dei settori comunque che anche in mezzo alla pandemia in qualche modo vivono. Ovviamente. Tu sai, e lo sa bene anche Davide, che da un lato è vero che non abbiamo consumato, gli unici negozi aperti erano quelli alimentari. Esatto, però ti faccio alcuni esempi. Il vino, che è un settore che a me sta particolarmente a cuore, anche perché sono un appassionato. È chiaro che tu avrai bevuto sicuramente quello che bevevi prima, non è che hai smesso, anzi c'è chi ha bevuto anche un po' di più visto il lockdown, però sapete meglio di me che l'offerta che c'è in un supermercato, per quanto possa essere ampia, è nulla a confronto rispetto all'offerta di un ristorante, e cioè la fascia è un po' più bassa rispetto a quella del ristorante, e soprattutto i produttori sono pochi rispetto a quelli che tu puoi trovare in una carta dei vini di un ristorante anche non stellato come quello di Davide, ma un ristorante normale. E quindi non è vero che poi tu riesci a consumare allo stesso modo i piccoli produttori non online, che non vendono con la rete, sono tagliati fuori completamente. Questa è una grossa riflessione per tutto il mondo poi del vitivinicolo, che non si era messo, che era abituato a vendere a 10 ristoranti e a 5 enoteche e aveva finito la produzione. Quelli vanno in difficoltà perché manca il canale dei ristoranti e in parte anche delle enoteche, nel senso che tu quando vai a fare la spesa poi compri il vino, non ti metti anche a cercare vino in enoteca, certo. A meno che non sia appassionato. No, chiaro, chiarissimo. E quindi lì i danni ci sono stati, ma ripeto, adesso sarà fondamentale vedere culturalmente quanto riusciremo a convivere con questa situazione, convivere col virus e accettare un rischio marginale, ma accettare un rischio di andare al ristorante. Al parrucchiere, io sono appena stato oggi, dal barbiere, ho accettato un rischio. Devo dire che in effetti io sto facendo questi ragionamenti, calcola che io da 42-45 persone adesso alla riapertura, e credo che lo farò nei primi giorni di giugno oramai andrò a 22-24 persone dentro il ristorante. Ospiti, io li chiamerei dopo, dopo la pandemia li chiamerei ospiti, che è un po' più poetico. Ma i dipendenti, Davide? I ragazzi dai quali io dipendo sono tutti in forza. Io ci tengo a dire che ho avuto una cassa integrazione che naturalmente non è ancora arrivata, però confido nella nostra Italia, nel decreto per cui arriveranno quei soldi. Ho fatto una cassa integrazione reintegrata e sono orgoglioso di aver fatto questo. I ragazzi rientreranno in toto tutti quanti, noi siamo più di 40-45 persone che sono incluse nelle mie attività. E tu, giusto per vedere il mio ottimismo, quello che dicevo prima, l'investimento sulla parte anche di uffici e di laboratorio che sto facendo, per cui io sono molto ottimista nel dopo. Io direi che a livello economico ma i prezzi, Sebastiano, scusate, posso fare questa domanda, perché insomma è anche fisiologico, infatti, che i ristoratori possano pensare di recuperare qualcosa, no. Però poi questa è una crisi simmetrica che riguarda un po' tutti, no? Chi più chi meno, però insomma che succederà? Allora, Pier, io volevo dire una cosa che noi abbiamo un po' dimenticato. Tu hai citato Tolstoi prima, io voglio essere anch'io un po' poetico. Abbiamo citato una parola, la cito io in questo periodo, che è il risparmio. Sembra che quando tu dica risparmio, quando tu parli di banca, economia, finanza, ti guardino male. Io credo che il risparmio sia quello che nell'italiano era proprio dentro la persona dell'italiano del dopoguerra, vedi i miei genitori, vedi le generazioni seguenti che ci hanno ricostruito il paese, per cui con il risparmio, io con i risparmi sono riuscito adesso ad avere una cassa integrazione reintegrata, sono riuscito a mantenere 40-45 bene persone con il posto di lavoro, per cui credo che l'Italia che ci rappresenta è quella dell'artigianato molto e del turismo. Per cui se noi, Barisone, direttore, non interveniamo con alcune regole, alcune leggi su queste situazioni, secondo me veramente perderemo. Adesso io non voglio monopolizzare il programma e adesso voglio sentire le vostre ricette. Vi dico solo un'ultima cosa. Io mi aspetto che, superato anche questo decreto, che era l'ultimo decreto emergenziale, diciamo col paese ancora chiuso, quello che si chiama rilancio, ma che era il decreto aprile-maggio, che ho chiamato ristoro, superato quello, le prossime iniziative devono essere mirate. Allora, rimani due minuti al volo, ci sentiamo le acciughe marinate, cipolla e radicchio, vai jingle, Oldani, facci sognare, vai. No, è molto semplice, molto semplice. Allora, le cipolle, un metodo antico che fa anche la mia mamma, 160 grammi di cipolle rosse tagliate a fette molto sottili, poi messe a marinare con 4 decilitri di aceto, anche un aceto di vino rosso, per un'ora, quindi poi vengono scolate, lavate sotto l'acqua corrente e tenute a parte magari su un strofinaccio per asciugarle per bene. Poi invece il radicchio sono 200 grammi sfogliato, un radicchio naturalmente di quelli di qualità, adesso ci sono gli ultimi perché sta chiudendo la stagione. Laviamo, li facciamo arrostire in una padella con un po' di olio, con 2 centilitri di olio di noci, e sfumiamo leggermente con un po' di Campari. Aggiustiamo di sapore con un po' di sale, un po' di pepe nero e un po' di zucchero moscovado. Teniamo anche queste foglie in disparte. Mentre invece per le acciughe è molto semplice, 200 grammi di filetti di acciughe, tutti dissalati, messi per bene, stesi per bene a marinare con un po' di olio extravergine di oliva, io uso il taggiasca come dico di solito, 4 centilitri di succo di arancia, lasciamo marinare il tutto per 20 minuti, dopodiché le diamo dalla marinatura, asciughiamo per bene e teniamo in disparte. Chiudiamo il piatto molto velocemente stendendo i filetti di acciuga nel piatto, divisi in 4 piatti perché la dose è per 4 persone, li copriamo con le foglie di radicchio che saranno un po' croccanti, un po' amare, un po' dolci, e poi sopra questa cipolla cruda che messa a marinare nell'aceto, come vi dicevo prima, risulta anche molto più digeribile, e poi delle piccole foglie di sedano bianco e un po' di sale a scaglie. Questo è il piatto dedicato al direttore. Voto 9, però adesso lo ripeterà più lentamente, così tutti potranno prendere note. E podcast. Esco dallo studio e vengo a prendere. Sapete che è un mio cavallo di battaglia. Sì, lo so. Meno ingredienti, più lentamente. Più lentamente. Vabbè, allora, adesso vado cipolle, fuori. Vado cipolle, fuori. Radicchio, acciughe. Cipolle, radicchio, acciughe. Eccolo, o se no vi davo la mia ricetta, cipolla con lo zucchero sopra, era più facile. Comunque, vabbè, non è passato, dai. Vabbè, dicela. dicela. Metti la cipolla a soffriggere e ci butti sopra lo zucchero, fine la ricetta, capito? Io okay, mi ricordo, una meravigliosa gag radiofonica di qualche tempo fa delle ricette veloci di Giampiero Galeazzi, che era praticamente pollo alla cacciatura, prendi direttore... pollo, vai a caccia, fatto. Va bene, ciao, grazie. Ciao. Grazie, io do il benvenuto a Lino Stoppani, rimaniamo in tema, presidente della FIP, Federazione Italiana Pubblici Esercenti, fra l'altro lombardo doc, nato in provincia di Brescia, una vita vissuta in questa regione che abbracciamo forte. Allora Lino, però insomma i pubblici esercenti che cosa si aspettano, che cosa sperano, che cosa hanno in mente? La creatività, la fantasia italiana ci salverà? I pubblici esercenti si aspettano buon tempo, insomma, perché i danni che stiamo medicando sono ingenti, di ogni tipo, di natura economica, di natura sociale. È chiaro che questa ripartenza lenta, spaventata, iniziata lunedì scorso, ha bisogno ovviamente di un percorso probabilmente molto lungo, dipenderà molto anche dalla capacità dei pubblici esercizi, dei ristoranti in particolare, di trasferire quegli elementi di sicurezza, di attenzione, di presidio dei problemi sanitari, perché sappiamo insomma che il contagio non è stato vinto, il virus gira ancora tra di noi, per cui approfitto anche di Radio 24 per riconfermare l'appello a quelli che sono gli aspetti di attenzione e di responsabilità, soprattutto in questa delicatissima fase, perché un ritorno della recrudescenza del certo, virus certo, e una ricaduta sarebbero spaventosi non solo per gli aspetti sanitari, ma anche per la salute delle aziende. Camminiamo su un filo sottile fra la nostra voglia di vivere, che poi è fondamentale anche per la ripartenza economica, e però anche la prudenza che ci deve veramente accompagnare in ogni nostro momento, per noi stessi ovviamente, perché abbiamo capito quanto possa essere terribile questo virus, ma anche per tutto il sistema. Stoppani, che cosa... Davide, tu sei, insomma, immagino, sei un pubblico esercente, quindi è il tuo presidente, Stoppani. Assolutamente, assolutamente sì, e sono felice di essere anche amico di Lino, per cui ti saluto Lino e grazie di essere qui con noi. No, come una tua impressione nel subito dopo coronavirus, allora c'erano alcune situazioni, qui è forse una provocazione che ti voglio fare, però poi mi dici tu, durante il coronavirus c'è stato questo problema del non pagare le fatture dei fornitori perché per causa del coronavirus. Il problema, giusto per dire, sensibilizzare un po' quello che è tutta la ristorazione o il nostro mondo dell'ospitalità, molte di queste fatture col fatto del coronavirus erano fatture comunque che riguardavano l'anno scorso, cioè novembre, dicembre, ottobre dell'anno passato. Allora non è che anche nel nostro settore, io faccio mea culpa, bisogna essere ancora più pronti per affrontare questo dopo pandemia in maniera più etica? Beh, ascolta, è chiaro che essere etici quando non hai soldi in tasca è molto difficile, Davide. È chiaro che i ritardi di pagamento sono un classico del nostro settore, perché è un grandissimo problema che tu conosci quanto me, che è la bassissima marginalità delle nostre attività. Siamo in troppi a fare questo mestiere e questo ha portato tutta una serie di patologie, tra le quali anche una di natura economica, che è l'altissimo tasso di mortalità e la bassissima marginalità. Senza profitto succede che evidentemente non si hanno i soldi per pagare i fornitori, non si hanno i soldi per investire, non si hanno i soldi per pagare meglio i nostri dipendenti, creando insomma quelle situazioni di disagio e di tensione che tu hai ben detto, insomma. Però sai, una cosa è non poter pagare, un'altra cosa invece è la moralità, insomma il nostro settore è fatto di persone per bene e quello che è l'obbligo e il dovere di pagare le fatture ai fornitori, insomma le abbiamo sempre pagate con qualche difficoltà aggravata dal momento. Speriamo che i provvedimenti che sono stati attivati, insomma qualcosa arriverà, anche se non saranno mai pari agli ingenti danni che il settore ha subito. Al danno. Grazie, ci fermiamo, abbiamo ancora due ricette, abbiamo grandi ospiti d'arrivo fra poco, vi ricordo, Veneto e Calabria. Mangia come parli, mangia come parli. E insomma, le problematiche degli esercenti con Stoppani, il punto sull'economia di Barisoni è veramente un'emergenza da provare a risolvere tutti insieme, con la politica ovviamente che ha un ruolo molto importante, però insomma anche noi con i nostri comportamenti virtuosi da semplici appassionati di cibo, di vino, possiamo dare una mano, e ci aspettiamo anche che gli esercenti insomma facciano lo stesso, con il rispetto dei criteri fondamentali perché nessuno si faccia del male. Allora, facciamo la ricetta, la seconda ricetta del Veneto, quella che evocava il professor Barisoni, Davide. Quindi riso, bisi e prosciutto, non male, eh? Allora, riso, bisi e prosciutto. Siamo tra il nome tradizionale e una ricetta nuova. Perché nuova? Perché utilizzo il baccello, ascoltate bene, il baccello dei piselli freschi, lavato, tagliato e cotto con un po' di acqua per una ventina di minuti, scolato, frullato, un goccino d'olio e otteniamo una purea, per cui una purea fatta col baccello ma non coi piselli, questa è una cosa molto nuova, che teniamo da parte. Nel frattempo avremo tolto da questi baccelli 80 grammi di piselli nani, per cui crudi, tenuti da parte. Cosa facciamo? Per il riso è molto semplice, 240 grammi per 4 persone di riso, carnaroli. Io uso un carnaroli perché sono lombardo. Potremmo usare un vialone nano, stando un po' più in Veneto, per cui si può scegliere tra queste due tipologie di risi. Li facciamo tostare a secco in pentola. Cosa facciamo? Una volta tostato, che è caldo, che emana il profumo di riso, bagniamo con un po' di acqua, poco per volta, e cuociamo per 14-15 minuti. Una volta che è cotto il nostro riso, più o meno a 2 minuti dalla fine aggiungiamo una cucchiaiata di quella purea di baccello, per cui cominciamo a profumare il nostro riso con il profumo dei piselli e a questo punto leviamo dal fuoco, cominciamo la mantecatura con poco burro, anche burro salato, un goccio di aceto di vino bianco e a questo punto aggiungiamo gli 80 grammi di piselli nani crudi. Ok, senza sbucciarli, così to cure, nudi e crudi. Mantechiamo leggermente, serviamo il nostro riso a ogni commensale in ciotole e a parte avremo preparato più o meno 50 grammi di prosciutto crudo tagliato molto sottile, essiccato in forno a 70-75 gradi per 3 ore. Quindi avremo ottenuto una polvere da questo prosciutto essiccato che metteremo sopra al nostro riso e bisi, per cui avremo il croccante del prosciutto, i piselli crudi che avranno un'intensità, anche una parte amara che normalmente questo piatto ha bisogno e basta. E poi il goccino di aceto. Dietro c'è il box della Mercedes, Oldani, perché sento dei rumori. Dove sei? Tu sei nel tuo studio, nel tuo ristorante. Sentivo a un certo punto che c'è Hamilton dietro che stava provando. Che c'è la Ferrari? Siamo in lavori in corso. Ah, va bene, va bene. Però devo dirti che il profumo di primavera, tanto per dire il tocco Oldani, no? Il profumo di primavera con l'utilizzo dei piselli, con i baccelli, la mantecatura del riso. Questo è arrivato forte e chiaro. Fin qui, non so se è arrivato anche alla professoressa Bauerman. Come va, Cristina? Ciao. Bene, ciao, ciao. Va bene. Ciao, oggi c'è una bellissima giornata di primavera. Gli ambasciatori del gusto sono in prima linea, no? State pensando a iniziative, state combattendo. Dici qualcosa, esatto. Perché è la vostra sfida, certo. Ma è la nostra sfida, di tutti quelli che amano questo paese. Beh, diciamo che gli ambasciatori del gusto si sono impegnati da sempre, fin dalla nascita dell'associazione dopo Expo, ma si sono sempre impegnati per interloquire con il governo. Ma nello stesso tempo diciamo che in questo periodo è venuto fuori forse una opportunità che in realtà era stata messa un po' da parte. Noi abbiamo curato la regia per la prima volta, se vogliamo utilizzare un termine che generalmente è un'accezione negativa ma per noi ne ha positivissima, che è quella di lobbying, ovvero un gruppo di pressione ormai formato da oltre 30 associazioni, siamo oltre 100.000 addetti e quindi immaginate, stiamo parlando di 300-400.000 persone che vivono grazie al lavoro di ristorazione, cercano di creare appunto gruppi di pressione per il governo per determinate richieste, ma soprattutto per rendere noto al governo le necessità del mondo della ristorazione, che non può essere ridotta a quella di artigianato. Ormai è chiaro, lampante, proprio è talmente come posso dire visibile che il mondo della ristorazione non può essere reclutato a quello di artigianato, ma a quello di imprenditoria, e tra l'altro un'imprenditoria che favorisce e aumenta ed è parte sostanziale del PIL italiano. Quindi non solo cultura, ma parliamo di soldi, e quindi quando parliamo di soldi, quando parliamo di PIL, è una categoria che va tutelata. E in questo senso ci siamo fatti portavoce, non soltanto nel primo decreto, ma anche nel secondo, con tutte le interviste e la pressione che stiamo facendo al governo, speriamo che già alcune delle nostre richieste siano state accolte, magari non noi direttamente, ma sicuramente abbiamo fatto pressione e abbiamo in canna altre richieste fatte al governo per far sopravvivere, anzi far rifiorire questo gruppo così importante per l'economia italiana. Ma come la mettiamo adesso se veramente riuscissimo con questa pressione che stiamo facendo a portare al governo un rappresentante, dico magari anche due rappresentanti che possano, anziché solo essere manager, finanzieri, banchieri, eccetera, parlare del quotidiano che accade del prodotto, nella ristorazione. Del prodotto, del know-how, certo. No, ma più che prodotto, è quello che accade nella ristorazione, farlo a trasferire e poi a creare delle leggi apposite, perché poi le leggi create per la ristorazione, per l'accoglienza e per l'hotellerie non possono essere uguali alle leggi create per la meccanica. Per cui e nel governo manca veramente un cuore che batte forte, che pulsa su questo settore. Ma guarda Davide, la cosa che mi sconvolge è che la cucina italiana è sicuramente tra le più rinomate nel mondo e sicuramente tra le più popolari, è anche il veicolo più forte, come tu sai, di trasmissione della cultura italiana. In tutti i paesi del mondo in cui le cucine hanno una certa importanza, parliamo della Francia, parliamo della Spagna, parliamo a questo punto anche della Danimarca, oppure dell'America anche, abbiamo avuto addirittura ristoratori che si sono seduti al tavolo governativo, si ascoltano le necessità. Le necessità sono tante, io ne posso elencare un paio, giusto così al volo. Parliamo per esempio dell'IVA. La Francia anni fa ha ridotto l'IVA che riguarda la ristorazione. Noi invece siamo ancora a 22%, 10%, non si capisce, veniamo multati perché non sappiamo. Ora c'è stato tutto quel problema relativamente alla scorta delivery e l'IVA. Oppure parliamo per esempio dei contratti nazionali. Ma può mai essere un cuoco professionista oppure un professionista di sala essere equiparato allo stesso contratto nazionale di una persona che fa un lavoro, per esempio un operaio in fabbrica, oppure di un altro pubblico esercizio che nulla a che vedere con il mondo della ristorazione? Grazie, grazie alla professoressa Bauman. SOS Oldani, vai, jingle, SOS Oldani, vai, vai. SOS Oldani. Chiara da Cecina. Buongiorno chef, vorrei fare una salsa ai frutti di bosco per accompagnare un taglio di carne, però ho un dubbio, nella preparazione ci vanno anche sale scalogno o la cipolla? Beh sai, io con i frutti di bosco non li metterei proprio né scalogno né cipolla, voglio dire, se poi si volesse azzardare un po' più elegante, un po' più delicato, farei una tagliata molto sottile di scalogno. Vabbè, insomma, Chiara, hai capito, insomma, lo chef dice anche no, ecco, questo è un po' il concetto. Eric da Verbania, ecco. Eric. Chef, una curiosità, ma i fiori commestibili sono un po' una moda estetica o possono dare anche un valore aggiunto come sapore ad un piatto? No, i fiori eduli esistono e qualcuno comincia a essere anche molto profumato, molto interessante. Naturalmente è un vegetale per cui si può anche abbondare magari cambiando le tipologie nel menù che facciamo. Per cui sono assolutamente a favore dei fiori eduli. Lorenzo da Giussano. Buongiorno chef Oldani, in questo periodo di coronavirus è molto difficile trovare il lievito di birra nei supermercati. Volevo chiederle se è possibile realizzarlo a casa e se funziona nello stesso modo del lievito di birra fresco. Allora, il lievito di birra è una cosa, è un po' più veloce nella lievitazione, nella produzione del pane o dei lievitati, per cui farlo a casa credo sia quasi impossibile. Nel caso volessimo farlo a casa dovremmo iniziare a fare un lievito madre che però prenderebbe dalle 15 alle 24 ore di produzione iniziale per poi proseguire in una lunga lievitazione dopo, per cui conviene magari aspettare un attimo e trovare... Aspettiamo. Anche quando si usa il lievito... Sì. Il lievito di birra io dico sempre per un chilo al massimo un grammo per quantità di farina. Un chilo di farina, un grammo di lievito. La proporzione è quella. Senti chef, abbiamo 40 secondi per fare 'nduja, riso e melone. Ce la fai? Allora, velocemente, Nduja e riso e melone. La Nduja è già pronta, selezioniamo quella più buona che troviamo sul mercato, la rompiamo leggermente con le mani, la sfilacciamo con le mani, la teniamo da parte in piccoli bocconcini, facciamo semplicemente un riso tostato a secco come faccio io di solito, utilizzando un riso Carnaroli, lo bagniamo con dell'acqua, dopodiché una volta terminata la cottura, più o meno 14-15 minuti, lo leviamo dal fuoco, lo mantechiamo con pochissimo grana padano, con un goccio di aceto di vino bianco, per cui abbiamo questo velo bianco nel piatto, e più o meno per 30 grammi a persona, per cui 3, 6, 9, 120 grammi di melone tagliato a cubetti, arrostito in una padella con un velo di olio, per cui accentuiamo il gusto del melone arrostendolo, poi lo saliamo leggermente, lo mettiamo sopra questo foglio di riso bianco con alcuni spuntoni di quella Nduja che abbiamo sfilacciato precedentemente. Perfetto, è stato bello, lungo ma bello, grazie di cuore chef, bello, bello ritrovarti, grazie, bello Piero. Ritrovarti sia pure insomma un po', con un bello po' di distanziamento sociale. Voi. Dai, ci sentiamo prossimo weekend, grazie, un bacio, ciao, ciao, ciao. Avanti, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.